Al vedere il vecchio Wakem vicino a Maggie, gli occhi di Lucy si volsero con trepido interesse per vedere come ella superava, dopo tempi tristemente memorabili, questo primo incontro con un uomo per il quale doveva nutrire una così strana mescolanza di sentimenti. Ma fu lieta di notare che Wakem aveva abbastanza tatto per entrare subito a discorrere degli articoli del banco di beneficenza e appariva interessato ai propri acquisti, sorridendo ogni tanto con gentilezza a Maggie, senza farla troppo parlare, come avesse notato che era piuttosto pallida e tremante. Com'è? Wakem sta mostrandosi particolarmente simpatico verso tua cugina, disse sottovoce Steven a Lucy. È pura magnanimità. Tu mi hai parlato di una lite di famiglia. Oh, cose che ben presto saranno del tutto dimenticate, spero, disse Lucy, resa un pochino indiscreta dalla soddisfazione e parlando con un'aria significativa. Ma Steven non parve rendersene conto e, siccome giungeva un acquirente, si accostò all'angolo di Maggie, giocherellando con dei gingilli e tenendosi in disparte finché Wakem, che aveva estratta la borsa, ebbe terminati gli acquisti. Mio figlio è venuto con me. Sentì che Wakem diceva, ma è scomparso in qualche altra parte del padiglione, lasciando a me tutte queste caritatevoli galanterie. Spero lo rimprovererete della sua indegna condotta. Ella ricambiò senza parlare il sorriso e l'inchino di Wakem, che si volse e solo allora si accorse di Steven, a cui fece un cenno col capo. Accorgendosi che Steven era ancora lì, Maggie si occupò a contare il denaro, evitando di alzare lo sguardo. Era stata molto contenta che quel giorno gli si fosse dedicato a Lucy, senza mai avvicinarsi a lei. S'erano scambiati al mattino un saluto indifferente, rallegrandosi poi di poter rimanere lontani l'uno dall'altra, come un malato che sia finalmente riuscito a fare a meno dell'oppio, sebbene in precedenza avesse mancato ai suoi propositi. A siffatte mancanze, durante gli ultimi giorni si erano in qualche modo rassegnati, considerando gli avvenimenti esteriori, che ben presto dovevano intervenire a separarli, come una buona ragione per dispensarsi dalla continua sorveglianza di se stessi. Steven si accostava, passo a passo, quasi trascinato contro il suo volere, finché ebbe girato intorno all'estremità aperta del banco e si trovò mezzo nascosto da una cortina di stoffe. Maggie continuava a contare il suo denaro quando all'improvviso udì una voce gentile e profonda che le diceva: Non vi sentite troppo stanca? Mi permettete di portarvi qualcosa, dei frutti o della gelatina? Posso? Questa inattesa voce la scosse come la subitanea e imprevedibile vibrazione di un'arpa accanto a lei. Oh, no, grazie, disse debolmente, alzando appena gli occhi per un attimo. Siete così pallida? Insisté Steven in tono più supplichevole. Sono sicuro che vi sentite esausta. Bisogna che vi disobbedisca e vi porti qualcosa. No, proprio. Non potrei prendere nulla, davvero. Siete in collera con me. Che ho fatto? Guardatemi. Oh, andate via, ve ne prego, disse Maggie con uno sguardo disperato che subito si distolse da lui per volgersi verso l'angolo opposto della tribuna che era mezzo nascosto dalle pieghe di una vecchia e svanita tenda verde. Maggie non aveva ancora terminato di proferire quella preghiera che già soffriva per la confessione che vi era contenuta. Ma Steven subito si voltò e, seguendo lo sguardo di lei, vide Philip Wakem seduto in quell'angolo seminascosto, da cui poteva scorgere poco più che il punto del padiglione dove sedeva Maggie. Un pensiero interamente nuovo lo assalì, che, associandosi con ciò che gli aveva notato nei modi di Wakem e con la risposta di Lucy alla propria osservazione, lo persuase che tra Philip e Maggie dovevano esserci state delle precedenti relazioni, oltre quell'amicizia infantile di cui aveva inteso parlare. Immediatamente sentì l'impulso, più di uno anzi, di abbandonare il padiglione e di salire nella sala dei rinfreschi. E qui, direttosi verso Philip, si sedette accanto a lui e gli pose una mano sulla spalla. Stai facendo degli studi per un ritratto, Philip? Gli disse, o per uno schizzo del finestrone? Per San Giorgio è davvero un pezzo capitale, visto da questo angolo oscuro con la tenda che gli dà risalto. Stavo studiando un'espressione, disse Philip tagliando corto. Come? Quella di Miss Tulliver? Direi che oggi è di un genere piuttosto selvaggio e irritato. qualcosa come una principessa decaduta che serva dietro un banco. Sua cugina mi ha mandato da lei a offrirle gentilmente qualche rinfresco, ma sono stato disprezzato come al solito. C'è tra noi due un'antipatia istintiva, suppongo. Di rado ho l'onore di piacerle. Che ipocrita sei, disse Filippa arrossendo di collera. Dici così perché l'esperienza dovrebbe avermi insegnato che piace a tutti? Riconosco che la regola è vera, ma in questo caso c'è qualche forza perturbatrice. Io me ne vado, disse Filippa alzandosi bruscamente. Anch'io, a prendere una boccata d'aria fresca. Questo luogo diventa soffocante. Credo di aver a sufficienza fatto il corteggiatore e prestato i miei servigi. I due amici scesero insieme le scale senza parlare. Philip uscì per la porta che dava sul cortile, ma Steven, dicendo: Oh, a proposito, ho da fare una breve visita qui, andò per il corridoio all'altra estremità dell'edificio, in una delle sale adibite a biblioteca civica. La sala era tutta per lui, ed è il meno che un uomo possa chiedere quando ha bisogno di gettare il cappello sulla tavola, buttarsi attraverso una poltrona e fissare un'alta parete di mattoni con tal cipiglio che non sarebbe al di sotto delle circostanze se egli avesse abbattuto il gigante pitone. La condotta suggerita da un conflitto morale risulta spesso tanto simile al vizio, che riesce difficile distinguerla in base a criteri esteriori fondati su un semplice paragone degli atti. Spero sia chiaro per voi che Steven non era un ipocrita, capace di premeditata doppiezza per fini egoistici. E non di meno quel suo ondeggiare tra l'indulgenza verso un sentimento e l'occultamento sistematico di esso, poteva fornire una buona prova a rincalzo dell'accusa di Philip. Nel frattempo Maggie era rimasta seduta presso il suo banco, fredda e tremante, con negli occhi quella penosa sensazione che proviene dalle lacrime risolutamente represse. Sempre doveva la sua vita essere così, e sempre portarle qualche nuova sorgente di lotte interiori. Udiva in confuso le voci concitate e indifferenti intorno a lei, e avrebbe voluto che il suo spirito potesse lasciarsi fluire entro quella facile e cerliera corrente. Proprio in quel momento il dottor Ken, il quale era giunto appena allora nel padiglione e con le mani dietro il dorso stava attraversandolo per averne una veduta d'insieme, fissò per la prima volta i suoi occhi su Maggie e fu colpito dall'espressione di dolore di quel bel volto. Ella se ne stava seduta, tutta tranquilla, perché l'afflusso dei compratori era scemato in quell'ora tarda del pomeriggio. Gli uomini, per la massima parte, avevano preferito di venire là verso la metà della giornata e il banco di Maggie appariva quasi vuoto. E questo insieme, con la sua espressione assente e triste, compiva il contrasto tra lei e le sue compagne, tutte brillanti, vive e affaccendate. Il dottor Ken si sentì forzato a fermarsi. Già in chiesa il volto di lei aveva naturalmente attratta la sua attenzione, perché nuovo e notevole. Poi egli le era stato presentato durante una breve visita d'affari in casa di Mr. Dean, ma non le aveva detto più di tre parole. Ora andava verso di lei e Maggie, accorgendosi che qualcuno le si avvicinava, si riscosse per alzare lo sguardo ed essere pronta a parlare. Provò un infantile, istintivo sollievo dal senso di disagio che questo sforzo le era costato quando vide che il volto fisso su di lei era quello del dottor Ken. Chiaro volto di mezza età, di una grave, penetrante dolcezza, e pareva narrare di un essere umano che, toccata una riva salda e sicura, stava guardando con soccorrevole pietà ai lottatori, ancora travolti dai flutti. In quel momento esso esercitò su Maggie un'azione di cui ella si ricordò più tardi, quasi come di una promessa. Gli uomini di mezza età, che hanno varcato le loro più forti emozioni, ma sono tuttavia nella stagione in cui la memoria è ancora appassionata e non soltanto contemplativa, dovrebbero sempre appartenere a una sorta di sacerdozio naturale che la vita ha disciplinato e consacrato per servire di rifugio e di soccorso ai giovani che inciampano e alle vittime dello scoraggiamento. La maggior parte di noi, in qualche momento della giovinezza, se doveva, come Maggie, superare senza alcun aiuto tutte le difficoltà dei 19 anni, avrebbe accolto con gioia un prete di questo ordine naturale, fosse chierico o laico. temo che troviate piuttosto faticoso il vostro compito, Miss Tulliver, disse il dottor Kent. Eh sì, piuttosto, disse Maggie con semplicità, non essendo avvezza a simulare amabili dinieghi dove i fatti erano evidenti. Potrò dire però a Mrs. Kent che avete fatto molto presto a vendere le sue mercanzie, soggiunse. Ve ne sarà molto grata. Oh, io non ho fatto nulla. I signori sono subito accorsi a comperare le vestaglie e i panciotti ricamati, ma io credo che qualunque altra di queste dame avrebbe venduto di più. Io non sapevo far discorsi su quella merce. Il dottor Kent sorrise. Spero che ormai vi avrò come parrocchiana permanente, non è vero, Miss Tulliver? Finora siete vissuta lontana da noi. Sono stata maestra in un collegio e tornerò ben presto ad un altro impiego del genere. Ah, speravo sareste rimasta tra i vostri parenti, che sono tutti di queste parti, credo. No, debbo andar via, disse Maggie gravemente, guardando il dottor Kent con un'espressione di fiducia, come se in quelle tre parole gli avesse narrata tutta la propria storia. Fu uno di quei momenti di implicita confessione che capitano a volte anche in un incontro dei più fuggitivi. Lungo un tragitto di un miglio, magari, o durante un riposo sul ciglio della strada, sempre c'è questa possibilità di ricevere da un estraneo una parola o uno sguardo che ravvivino il senso dell'umana fratellanza. Per molti indizi il dottor Kent vide e sentì che questa breve confidenza di Maggie era densa di significato. Capisco, disse. A voi pare che sia giusto d'andarvene, ma questo non impedirà che ci incontriamo ancora, spero. Non mi impedirà di conoscervi meglio, se posso esservi di qualche utilità. Le porse la mano e strinse affettuosamente le sue prima di allontanarsi. Ah, qualche pena in cuore, pensò. Povera figliuola, si direbbe quasi che sia destinata ad essere una di quelle anime da natura levate troppo in alto, da soffrire abbattute troppo in basso. C'è qualcosa di meravigliosamente onesto in quei begli occhi. Può parere sorprendente che Maggie, a cui non mancava, tra i molti difetti, un'eccessiva compiacenza di vedersi ammirata e riconosciuta, superiore, e già ne abbiamo avuto la prova quando istruiva gli zingari allo scopo di conquistarsi tra loro una posizione regale, non si sentisse più sollevata in un giorno che le aveva recato il tributo di tanti sguardi e sorrisi, oltre il senso di intima soddisfazione che non aveva potuto a meno di provare, allorché, condotta da Lucy davanti alla specchiera, aveva scorto il rigoglio della sua slanciata beltà coronata dalla tenebra dei capelli densi. Aveva allora sorriso a se medesima e per un momento si era dimenticata d'ogni altra cosa nella sensazione della propria bellezza. Se un tale stato d'animo fosse durato, senz'altro ella avrebbe scelto d'avere Stephen Guest ai suoi piedi, in atto di offrirle una vita colma di ogni lusso, con un quotidiano incenso da adorazione prossimo e lontano, e tutte le possibilità di cultura a propria disposizione. Ma c'era in lei qualcosa di più forte che la vanità. Passione c'era, e tenerezza, e una tenace, profonda memoria dei precoci sforzi e rigori, dei passati appelli al suo amore e alla sua pietà. E allora il rivolo della vanità fu subito deviato a perdersi senza traccia nella più ampia corrente che la rapiva quel giorno in tutta la sua forza, sotto la doppia urgenza degli eventi esteriori e degli impulsi intimi determinatisi durante l'ultima settimana. Philip non le aveva detto personalmente che, per quanto concerneva suo padre, tutti gli ostacoli erano appianati. Non se ne sentiva l'animo, ma aveva tutto narrato a Lucy nella speranza che Maggie, da lei informata, potesse darle qualche incoraggiante indizio che l'essere ormai tanto più vicini l'uno all'altro era per lei una felicità. La tempesta di sentimenti in conflitto fu troppo forte perché Maggie potesse dir parola. Quando Lucy, con un volto spirante e l'animata gioia come un angelo del correggio, lasciò esplodere il proprio trionfo, né le fece supporre che Maggie non potesse altro che piangere di contentezza all'idea che le volontà di suo padre venivano completamente esaudite e che Tom avrebbe recuperato il mulino come compenso di tutto il suo sprolottare. I minuti preparativi per la vendita di beneficenza erano sopraggiunti a usurpare tutta l'attenzione di Lucy durante gli ultimi pochi giorni e più nulla era stato detto tra le due cugine su argomenti fatti apposta per risvegliare i loro sentimenti più profondi. Philip era venuto in casa più di una volta, ma Maggie non aveva avute conversazioni a quattro occhi con lui, sicché era rimasta sola a combattere la propria battaglia interiore senza gli altrui interventi. Ma allorché la vendita giunse fortunatamente alla fine e le cugine si ritrovarono sole in casa, Lucy disse: «Bisogna che tu rinunzi a passare la giornata di posdomani con tua zia Moss, Maggie. Scrivile un biglietto dicendole che hai rinviato la visita per mia preghiera. Manderò io l'uomo a portarglielo. Non se la prenderà, avrai ben presto tutto il tempo di andarci, ma ora non vorrei che ti allontanassi». Ma, cara, bisogna assolutamente che ci vada. Non posso rimandare. Per nessuna ragione al mondo vorrei trascurare zia Gritti. E avrò pochissimo tempo perché al 25 di giugno devo partire per il mio nuovo impiego. Maggie, disse Lucy, quasi bianca dallo stupore. Oh, non te ne ho parlato, cara, disse Maggie facendo un grande sforzo per signoreggiarsi, perché sei stata così occupata, ma qualche tempo fa ho scritto alla nostra vecchia istitutrice, Miss Furniss, pregandola di farmi sapere se le capitava qualche posto che io potessi occupare, e l'altro giorno ho ricevuto una lettera in cui mi dice che potrei portare al mare durante le vacanze tre suoi scolari orfani e così fare il periodo di prova per un posto di maestra nel suo collegio. Ieri le ho risposto, accettando l'offerta. Lucy si sentì così ferita che per qualche momento fu incapace di parlare. Maggie, disse finalmente, come puoi essere così poco gentile con me? Fare un passo simile senza dirmi nulla in questo momento? Esitò un poco e poi soggiunse: E Philip, pensavo che saremmo stati tutti così felici. Oh, Maggie, qual è la ragione? Rinuncia a quell'idea, lascia che scriva io. Ormai non c'è più nulla che possa dividerti da Philip. Sì, disse Maggie con voce che si sentiva appena. Ci sono i sentimenti di Tom. Mi ha detto che se sposavo Philip dovevo rinunciare a lui e so che non muterà di avviso. Per lungo tempo almeno, finché non succeda qualche cosa che lo placchi. Oh, ma gli parlerò io. Deve tornare in settimana e le buone notizie del mulino lo ammansiranno. E poi gli parlerò di Philip. Con me Tom è sempre stato tanto compiacente, non posso crederlo ostinato. Ma io debbo andar via, disse Maggie con voce disperata. Debbo lasciare che passi un po' di tempo. Non farmi rimanere, non insistere, cara Lucy. Per 2 o 3 minuti Lucy rimase silenziosa, guardando altrove e meditando. Alla fine si inginocchiò davanti alla cugina e, alzando gli occhi verso il volto di lei con trepida serietà, le disse: Maggie, forse che non ami abbastanza Philip per sposarlo, dimmelo, confidati a me. Per qualche istante Maggie strinse forte in silenzio le mani di Lucy, le sue erano diacce, ma quando parlò la sua voce era perfettamente chiara e distinta. Sì, Lucy, io accetterei di sposarlo. Credo che sarebbe per me la sorte migliore e la più degna rendere felice la sua vita. Egli è stato il primo ad amarmi. Nessun altro potrebbe essere per me quello che è lui, ma non posso separarmi da mio fratello per tutta la vita. Devo partire e aspettare. Non parlarmene mai più, te ne prego. Lucy obbedì con pena e stupore. L'ultima parola che la disse fu: Bene, cara Maggie. Verrai almeno al ballo di domani nella casa del parco e ti godrai un po' di musica e di luce prima di andare a fare quelle pesanti visite di dovere. Ah, ecco zietta che porta il tè. 10. L'incantesimo sembra spezzato. La fuga delle sale, che s'aprivano l'una sull'altra nella casa del parco, faceva, come era giusto, un brillante vedere con le luci e i fiori. La personale magnificenza di 16 coppie e relativi parenti ed accompagnatori. Centro di quello splendore era il lungo salone dove si ballava ai ritmi del grande pianoforte. Invece la biblioteca, su cui esso apriva una delle sue estremità, era tenuta in una illuminazione più sobria e adatta all'età matura, con veli e paralumi. mentre all'altra estremità il grazioso salotto con l'annessa serra doveva servire per ritirarsi momentaneamente al fresco. Lucy, che s'era tolta il lutto per la prima volta, con la sua graziosa personcina, avvolta in un'ampia veste di crespo bianco, era la regina riconosciuta della festa, giacché si trattava di una di quelle serate in cui le Miss Guest si degnavano di non invitare aristocrazia più alta che quella di St. Oaks e si spingevano ad ammettere tutto quanto era possibile della borghesia commerciale e professionale. Maggie da principio rifiutò di ballare, dicendo che aveva dimenticate tutte le figure, tanti anni erano passati da quando aveva ballato in collegio, ed era contenta di quella scusa, perché fa male di ballare col cuore che pesa. Ma dopo un po' la musica finì con l'agire sulle sue giovani fibre e il desiderio venne, quantunque fosse l'insopportabile giovane Tori che si avanzava per la seconda volta a tentare di persuaderla. Lo avvertì che non sapeva ballare se non con la contraddanza. Ma lui naturalmente era ben lieto di aspettare per così alta felicità e solo per complimento le ripeté a parecchie riprese che era una grande seccatura che ella non ballasse il valzer. Gli sarebbe tanto piaciuto fare un giro di valzer con lei. Ma finalmente venne la volta della buona danza all'antica, tanto favorevole all'allegrezza quanto poco corriva alla vanità, e Maggie dimenticò tutte le pene della sua vita in un infantile godimento di quei ritmi mezzo rustici che paiono bandire ogni pretenziosa etichetta. Si sentiva molto indulgente verso il giovane Torri, allorché la mano di costui la reggeva e guidava attraverso la danza. I suoi occhi e le sue guance avevano quel fuoco di gioia giovanile, pronto ad accendersi non appena trovi il minimo soffio che lo alimenti, e la sua semplice veste nera, con le guarnizioni di pizzo nero, pareva la cupa legatura di un gioiello. Steven non l'aveva ancora invitata a ballare, né le aveva rivolto che un saluto di passaggio. Dal giorno precedente quella visione di lei che costantemente gli occupava l'animo era stata mezzo velata dall'immagine di Philip Wakem che vi si era sovrapposta come una macchia. Doveva esserci qualche legame tra Maggie e Philip, o perlomeno un legame da parte di lui per cui ella si sentiva in qualche modo impegnata. Un'altra esigenza di onore, dunque, si diceva Steven, la quale gli imponeva di resistere all'attrattiva che continuamente minacciava di soggiogarlo. Così egli diceva a se stesso, e tuttavia aveva sentito a volte una certa resistenza selvaggia e a volte un fremito di ripugnanza contro questo interporsi dell'immagine di Philip, che quasi gli riusciva un nuovo incitamento a slanciarsi verso Maggie e a volerla per sé. Quella sera, peraltro, aveva fatto ciò che si era riproposto. S'era tenuto in disparte da lei, l'aveva appena guardata e si era mostrato gaiamente assiduo con Lucy. Ma ora i suoi occhi divoravano Maggie e aveva voglia di cacciare dal ballo a pedate il giovane Torri e prendere il suo posto. Poi desiderava che la danza terminasse per separarsi finalmente dalla propria ballerina. L'idea di poter ballare gli pure con Maggie e tenere così a lungo la mano di lei nella propria cominciava a impossessarsi di lui come un'arsura. Ed ecco, ora le loro mani si incontrarono nella danza, proprio verso la fine si incontrarono, quantunque le loro coppie fossero state molto discoste l'una dall'altra. Steven non capì bene che cosa succedeva, né per quale automatismo sbrigasse i suoi doveri di cortesia in quel frattempo, finché fu libero e rivide Maggie, che sedeva di nuovo sola all'estremità della sala. Si diresse verso di lei, girando intorno alle coppie che stavano formandosi per il valzer, e Maggie, quando s'accorse di essere la persona cercata, si sentì, ad onta di tutti i pensieri formati in precedenza, una raggiante allegrezza nel cuore. Gli occhi e le gote le brillavano ancora di quel suo infantile entusiasmo per la danza, tutto il suo essere era disposto alla gioia, alla tenerezza, perfino le pene a venire non riuscivano più ad apparirle amare. Era pronta ad accoglierle come una parte della vita, perché la vita, in quel momento, le pareva un acuto vibrar dell'anima, librata sopra la gioia e la pena. Per quest'unica, per quest'ultima sera, poteva abbandonarsi, senza costrizione, al calore del presente, libera dei freddi e logoranti pensieri del passato e dell'avvenire. «Ora fanno di nuovo il valzer», disse Steven, chinandosi per parlarle con quello sguardo e quella voce di sommessa tenerezza che i sogni giovanili si fingono tra boschi estivi, quando l'aria è piena di suoni dolci e bassi. Sguardi e voci siffatti portano seco il soffio della poesia, anche dentro una sala mezzo soffocante di luci a gas e di meschine galanterie. Ora fanno di nuovo il valzer, solo a guardarli vengono quasi le vertigini. E la sala è molto calda, vogliamo fare due passi? Le prese la mano, che mise sotto il proprio braccio, e andarono nel salotto, dove le tavole erano coperte di stampe ad uso di visitatori che non avevano punto voglia di guardarle. Ma in quel momento non c'era nessuno. Passarono nella serra. Come strani ed irreali questi alberi e fiori così illuminati, disse Maggie a bassa voce. Pare che appartengano a un paese incantato e non debbano mai appassire. Viene da fantasticare che siano tutti fatti di pietre preziose. Parlando, guardava il filare dei gerani e Steven non le diede risposta, ma fissava lei. E non c'è forse un poeta supremo che fa una sola cosa della luce e del suono, chiamando muta l'ombra ed eloquente la luce? Qualcosa di stranamente potente era nella luce della lunga occhiata di Steven, che costrinse il viso di Maggie a volgersi e alzarsi verso di lui, lentamente, come un fiore verso il crescere della luce. E camminavano incerti, senza accorgersi che camminavano, senza accorgersi di nulla, fuorché di quella lunga, grave, vicendevole occhiata che aveva la solennità propria di tutte le profonde passioni umane. L'imminente pensiero di dovere e volere rinunziare l'uno all'altra rendeva più intenso nel suo rapimento quell'attimo di muta confessione. Ma avevano raggiunta l'estremità della serra ed erano obbligati a fermarsi e a tornare indietro. Questo mutare di movimento cangiò lo stato d'animo di Maggie e la arrossì profondamente. Volse il capo e ritrasse il suo braccio da quello di Steven, accostandosi a certi fiori per odorarli. Steven rimase immobile e sempre pallido. «Oh, posso cogliere questa rosa?» disse Maggie, facendo un grande sforzo per dir qualcosa e dissipare lo scottante senso di un'irrevocabile confessione. «Forse io sono molto cattiva con le rose. Mi piace di raccoglierle e odorarle finché non hanno più profumo.» Steven era muto, incapace di mettere insieme una frase, e Maggie alzò un poco il braccio verso quella grande rosa semiaperta che l'aveva attratta. Chi non ha sentito la bellezza di un braccio di donna, le inesprimibili insinuazioni di tenerezza racchiuse nelle fossette del gomito e tutto il variare e digradare gentile delle curve fino al polso delicato, con quelle piccole, quasi impercettibili modulazioni nella sua ferma dolcezza? Un braccio di donna toccò l'anima di un grande scultore, ora è 2000 anni, ed egli ne lavorò per il Partenone un'immagine che ancora ci commuove, nell'atto che stringe amorosamente il marmo corroso di un tronco decapitato. Tale era il braccio di Maggie, e aveva le calde tinte della vita. Un folle impulso si impadronì di Steven, che si slanciò su quel braccio e, stringendolo per il polso, lo coprì di baci. Ma subito Maggie lo ritrasse e fulminò su di lui lo sguardo di una corrucciata dea di guerra, fremebonda di rabbia e di umiliazione. «Come osate?» gli disse, con voce profondamente agitata e mezzo soffocata. «Che diritto vi ho dato di offendermi?» E balzò via da lui nella camera attigua e si lasciò cadere sul divano, ansante e tremante. Oh, un'orribile punizione era caduta su di lei per il peccato di essersi concessa un istante di felicità, che era un tradimento a Lucy, a Philip, alla miglior parte dell'anima sua. Quella momentanea felicità era stata segnata da una macchia, da una lebbra. Steven trattava con più leggerezza lei che Lucy. Quanto a Steven, s'appoggiava alla balaustra della serra, stordito da un conflitto di passioni, amore, rabbia e confusa disperazione. Disperazione per la mancanza di dominio su se stesso e disperazione di aver offeso Maggie. Quest'ultimo sentimento superava tutti gli altri. Potersi ritrovare al fianco di lei ed implorare il perdono erano le sole cose che avessero forza di smuoverlo, e non erano passati che pochi minuti da quando ella si era seduta, che le si era accostato e stava umile davanti a lei. Ma l'amaro sdegno di Maggie era ancora vivo. «Lasciatemi sola, di grazia», ella disse con impetuosa alterigia, «e in avvenire evitatemi.» Steven si allontanò e si mise a passeggiare avanti e indietro per l'altra estremità della stanza. C'era il terribile obbligo di tornare in sala da ballo ed egli cominciava a rendersene conto. Erano rimasti fuori per un tempo così breve che quando egli rientrò il valzer non era ancora terminato. Anche Maggie non tardò a rientrare. Tutto l'orgoglio del suo carattere la stimolava all'azione. L'odiosa debolezza che l'aveva trascinata al punto da lasciarsi ferire nella propria dignità era bastata almeno a produrre da sé il suo rimedio. I pensieri e le tentazioni di quell'ultimo mese dovevano essere tutti ricacciati entro un invisibile fondo della memoria. Più nulla ormai poteva sedurla. Facile sarebbe stato il dovere e tutti i calmi propositi di un tempo sarebbero tornati a regnare in pace. Rientrò nel salotto con ancora una certa fiamma di eccitazione sul volto, ma con un orgoglioso senso di dominio su se stessa che sfidava qualunque cosa a poterla ancora turbare. Rifiutò di rimettersi a ballare, ma parlò con assoluto equilibrio e tranquillità a quanti le si rivolgevano e quando quella sera rincasarono, baciò Lucy col cuore sgombro, esultando quasi di quel momento di tortura che l'aveva liberata dalla possibilità di un'altra parola o sguardo in cui fosse impresso il segno del tradimento verso quella gentile, fiduciosa sorella. Il mattino seguente Maggie non partì per Bassett così presto come si era proposta. Sua madre doveva accompagnarla in carrozza e le faccende domestiche non erano per Mrs. Tulliver cosa tanto lesta da sbrigare. Così, dopo essersi affrettata a prepararsi, Maggie, tutta vestita da viaggio, dovette sedersi ad aspettare nel giardino. Lucy era occupata in casa ad avvolgere alcuni doni del banco di beneficenza per i ragazzi di Bassett, quando si sentì un acuto squillo al campanello esterno. Maggie provò timore che Lucy conducesse Steven lì fuori da lei, era sicura che si trattasse di Steven. Ma ecco che il visitatore uscì da solo nel giardino e si sedette accanto a lei, sulla panchina. Non era Steven. Da questo sedile possiamo vedere giusto le cime dei pini di Scozia, Maggie, disse Philip. Si erano stretti vicendevolmente la mano in silenzio, ma nel guardarlo Maggie aveva ritrovato il vecchio sorriso affettuoso dei tempi infantili in una reviviscenza più completa di quante gli avesse veduto fino allora. Si sentì incoraggiato. Sì, ella disse, li guardo spesso e vorrei vedere ancora la luce del tramonto sui loro tronchi, ma non sono tornata che una sola volta da quella parte, andando al cimitero con mia madre. Io ci sono stato, ci vado sempre, disse Philip. Non ho che il passato per vivere. Un vivo ricordo e una viva pietà spinsero Maggie a mettere la sua mano in quella di Philip. Tante volte avevano passeggiato dandosi la mano. Mi ricordo tutti i luoghi, ella disse, proprio quelli dove mi avete raccontato qualcosa di speciale, le belle storie che io non avevo udite mai prima di allora. Tornerete presto ad andarci, non è vero, Maggie? Disse Philip facendosi timido. Tra poco il mulino sarà di nuovo la casa di vostro fratello. Sì, ma io non ci sarò, disse Maggie. Di quella felicità io sentirò soltanto parlare. Debbo tornare a partire, non ve l'ha detto Lucy? E allora l'avvenire non riuscirà più a riallacciarsi col passato, Maggie? Il libro è completamente chiuso? Quegli occhi grigi che tante volte si erano alzati verso di lei con supplice adorazione si levavano ora con un ultimo struggente raggio di speranza che Maggie ricambiò col suo grande sguardo sincero. Quel libro non sarà mai chiuso, Philip, gli disse con grave tristezza. Un avvenire che possa spezzare i legami del passato. Io non lo desidero, ma il legame che mi avvince a mio fratello è dei più forti. Non posso, di mia volontà, far nulla che mi divida per sempre da lui. È solamente per questa ragione che noi dovremmo rimanere separati per la vita, Maggie? Disse Philip con la disperata decisione di ottenere una risposta definitiva. Solo per questa, disse Maggie con tranquilla risolutezza, e lo credeva. In quel momento sentiva come se la coppa incantata si fosse spezzata al suolo. La reazione che le aveva dato un orgoglioso dominio su se stessa non era venuta meno, ed ella guardava all'avvenire col senso di una calma facoltà di scelta. Sedevano con la mano nella mano, senza guardarsi l'un l'altra né per qualche minuto parlarsi. Nell'animo di Maggie le prime scene d'amore e di distacco erano più presenti che il momento attuale. Ancora stava guardando Philip ai fondi rossi. Philip sentì che avrebbe dovuto essere completamente contento di quella risposta, limpida e cristallina come sorgente di roccia. Perché dunque non lo era? Nulla basta soddisfare la gelosia se non una completa onniscienza capace di scoprire le più sottili pieghe del cuore. 11. Nel sentiero. Maggie era stata 4 giorni dalla zia Moss, dando ai primi soli del giugno nuovo splendore, anche per gli occhi affranti della cara donna, e facendo epoca per i cugini grandi e piccoli, che imparavano a memoria le sue parole e i suoi atti, come se ella fosse una fuggitiva incarnazione della perfetta saggezza e bontà. Un giorno stava davanti la casa con la zia e un gruppo di cugini che davano il becchime ai polli, ed era l'ora riposata nella vita della fattoria che precede la mungitura pomeridiana. I grandi edifici intorno al cortile vuoto erano quanto mai tristi e diroccati, ma oltre la muraglia del vecchio giardino i cespi di rose selvagge cominciavano a gettare la loro estiva opulenza, e il grigio legname e gli antichi mattoni della parte più alta della casa avevano, nell'ampia luce pomeridiana, un aspetto di addormentata vecchiezza che si addiceva a quell'ora di riposo. Il cappello sul braccio, Maggie sorrideva alla covata dei piccoli pulcini lanuginosi quando la zia esclamò: «Dio mi benedica, chi è quel signore che sta giungendo alla porta?» Era un signore su un alto cavallo baio, e i fianchi e l'incollatura del cavallo erano striati di nero per la rapida corsa. Maggie sentì martellare la testa e il cuore, qualcosa di orribile, come il subitaneo risorgere alla vita di un selvaggio nemico che si era finto morto. «Chi è, cara?» disse Mrs. Moss, leggendo chiaramente nel viso di Maggie che ella lo conosceva. «È Mr. Stephen Guest», disse Maggie quasi venendo meno. «Mia cugina Lucy è un signore molto familiare in casa di mia cugina». Ormai presso a loro Steven era saltato giù dal cavallo ed ora veniva avanti togliendosi il cappello. «Tieni il cavallo, Willy», disse Mrs. Moss al suo ragazzo 12enne. «No, grazie», disse Steven, trattenendo il cavallo che scrollava impazientemente la testa. «Devo ripartire subito. Ho una commissione per voi, Miss Tulliver, per un affare privato. Posso prendermi la libertà di invitarvi a fare qualche passo con me?» Aveva quell'aria tra oppressa e contrariata che la gente prende sotto l'assillo di qualche inquietudine o fastidio per cui pasti e sonni fanno poco pro. Parlava quasi ruvidamente, come se il suo messaggio fosse troppo urgente perché egli potesse preoccuparsi di ciò che Mrs. Moss pensava della sua visita e della sua richiesta. La buona Mrs. Moss, piuttosto nervosa alla presenza di quel signore di così altero aspetto, si domandava dentro di sé se avrebbe fatto bene o male a ripetergli l'invito di lasciare il cavallo e di entrare, mentre Maggie, sentendo tutto l'imbarazzo della situazione, incapace di dir parola, si mise il berretto e si volse verso il cancello. Anche Steven si volse e camminava al fianco di lei tenendo il cavallo. Nemmeno una parola fu detta finché non furono fuori sul sentiero ed ebbero fatto 4 o 5 passi. Allora Maggie, che per tutto quel tempo aveva tenuto lo sguardo fisso davanti a sé, si voltò per tornare indietro, dicendo con altero risentimento: «Non è necessario che io venga più in là. Non so se, mettendomi nella situazione di dover uscire con voi, riteniate di agire da gentiluomo e da persona delicata. O se ancora una volta intendiate di offendermi col forzarmi così a questo colloquio. Naturalmente siete in collera con me perché sono venuto», disse Steven con amarezza. «Naturalmente quel che un uomo può soffrire non ha alcuna importanza, solo la vostra dignità di donna vi sta a cuore». Maggie ebbe un leggero trasalimento, quale avrebbe potuto darle la più lieve delle scosse elettriche. come se non bastasse che io sia così soggiogato, che io sia pazzo d'amore per voi, che per tentare di serbarmi fedele ad altri obblighi io resista alla più violenta passione che un uomo possa sentire. Ed eccomi, trattate come un brutale villano che si metta di proposito ad offendervi. E pensare che se io fossi libero della mia scelta, vi pregherei di accettare la mia mano, la mia fortuna e tutta la mia vita, e di farne ciò che vi piace. So che ho perduto il controllo di me stesso, mi sono preso una libertà ingiustificabile e mi disprezzo di averlo fatto, ma immediatamente me ne sono pentito, né ho cessato di pentirmene da allora. E questo non dovrebbe parervi imperdonabile. Un uomo che, come me, ami con tutta l'anima sua, è esposto a lasciarsi per un momento dominare dai suoi sentimenti. Ma voi sapete, voi dovete credere che la mia pena maggiore è d'avervi recato una pena che darei il mondo per riparare al mio errore. Maggie non osava parlare, non osava divolgere il capo. La forza venutale dal risentimento s'era tutta dileguata e le sue labbra tremavano visibilmente. Non si fidava di pronunciare le parole di completo perdono che le sgorgavano in risposta a quella confessione. Erano quasi tornati presso il cancello ed ella si fermò, tremante. «Non mi dite queste cose, io non debbo ascoltarle», disse abbassando gli occhi in desolazione, mentre Steven le si metteva di fronte per impedirle di avanzare ancora verso il cancello. «Sento molta pena per tutte le sofferenze che voi potete provare, ma parlarne non serve». «Sì che serve», disse Steven impetuosamente. «Servirebbe se voleste trattarmi con un poco di pietà e di riguardo, invece di condannarmi nei vostri pensieri e di umiliarmi. Tutto sopporterei con più calma se sapessi che non mi disprezzate come un insolente o un fatuo. Guardatemi. Oh, vedete che povero disperato che sono. Tutti i giorni ho fatto 30 miglia a cavallo per scacciare il pensiero di voi». Maggie non guardava, non osava di guardare. Quel viso disfatto l'aveva già veduto, ma disse con dolcezza: «No, che non penso male di voi». «Allora, cara, guardatemi», disse Steven col più profondo e tenero accento di preghiera. «Non mi lasciate ancora, datemi un momento di felicità, fatemi sentire che m'avete perdonato». «Sì, vi perdono», disse Maggie, sconvolta da quell'accento e ancora più sgomenta di se stessa. «Ma vi prego di lasciarmi rientrare, vi prego di andarvene». Una grossa lacrima le cadde dai cigli abbassati. «Non posso andarmene di qui, non vi posso lasciare», disse Steven con supplica ancora più appassionata. «Se mi mandate via con tanta freddezza, tornerò. Non rispondo di me stesso. Ma se voi vorrete fare con me pochi passi soltanto di questo poco, io potrò vivere. Vedete ormai chiaro che la vostra collera non è riuscita se non a rendermi 10 volte più irragionevole». Maggie si voltò, ma Tancred, il cavallo baio, cominciò a fare delle così focose proteste contro questi continui cambiamenti di direzione che Steven, scorgendo Willy Moss che guardava attraverso il cancello, lo chiamò. «Senti, vieni qui e tienimi il cavallo per 5 minuti». «Oh no», disse Maggie precipitosamente, «questo a mia zia può parere troppo strano». «Non importa», rispose Steven con impazienza, «tanto qui non conoscono la gente di St. Ogg's. Fagli fare qualche passo qui intorno per 5 minuti», soggiunse a Willy, che si trovava ora presso di loro. Poi si volse dalla parte di Maggie e si avviarono. Era chiaro che adesso ella doveva andare. «Appoggiatevi al mio braccio», disse Steven in tono di preghiera. Ed ella vi si appoggiò, provando per tutto quel tempo l'impressione di chi in un incubo notturno si senta scivolare. «Non c'è conclusione a questa infelicità», cominciò, lottando per respingere con le parole quel fascino. «È colpevole, è basso di permettersi anche una parola, anche uno sguardo che Lucy, che altri non debba aver visto. Pensate a Lucy». «Ci penso, benedetta. Se no...» Steven aveva messo la mano su quella di Maggie, abbandonata sul suo braccio, ed entrambi sentivano che era difficile parlare. «E io ho altri legami», cominciò finalmente Maggie con uno sforzo disperato, «quando anche non esistesse Lucy. Voi siete fidanzata con Philip Wakem?» disse Steven rapidamente. «È così? Mi considero sua fidanzata. Non sposerei mai altri che lui». Steven rimase di nuovo in silenzio, finché dal pieno sole ebbero svoltato in un sentiero laterale, tutto erboso ed ombreggiato. Allora, impetuosamente proruppe: «È snaturato! È orribile, Maggie! Se voi mi amaste come io vi amo, sapremmo buttare all'aria qualunque cosa pur di appartenere l'uno all'altra. Sapremmo spezzare tutti questi falsi legami contratti nella cecità e decidere di sposarci. Preferirei morire che cadere in questa tentazione», disse Maggie con voce bassa, lenta e chiara, e tutta la forza spirituale radunata negli anni di pena veniva in questo frangente ad assisterla. Mentre parlava, gli tolse il proprio braccio. «Ditemelo allora, che non vi importa nulla di me», egli esclamò quasi con violenza. «Ditemelo, chiamate di più qualcun altro». Balenò alla mente di Maggie, che era quello un mezzo per liberarsi da ogni conflitto esterno, dire a Steven che tutto il suo cuore apparteneva a Philip, ma le sue labbra non potevano pronunciare una cosa simile, ed ella rimase in silenzio. «Se mi amate, cara», disse Steven con dolcezza, riprendendole la mano e rimettendola sotto il proprio braccio, «è meglio, è giusto che ci sposiamo. Non è in nostro potere d'impedire il dolore che ci può produrre. È una cosa che ci è toccata senza che la cercassimo. È una cosa naturale. Oh, si è impossessata di me a dispetto di tutti gli sforzi che ho fatto per resistere. Sai Dio se ho tentato di rimanere fedele a un tacito impegno, non m'è riuscito che di peggiorare le cose. Avrei fatto meglio a cedere subito». Maggie rimaneva zitta. Se non ci fosse stato del male, se ella avesse potuto una buona volta convincersene, senza più avere bisogno di combattere e lottare contro questa corrente dolce, eppure impetuosa come un torrente di primavera. «Dite di sì, cara», riprese Steven, curvandosi per guardarla supplichevolmente in viso, «che può importarci del mondo intero se noi ci apparteniamo l'uno all'altra?» L'alito di Maggie gli era sul volto. Le sue labbra erano vicinissime a quelle di Maggie, ma nel suo amore per lei c'era un grande, terribile ritegno. Le labbra e le palpebre di Maggie tremavano. Per un attimo ella abbassò gli occhi su di lui, simile a vezzoso animale selvatico, timido e riluttante sotto le carezze, e poi, bruscamente, si voltò per tornare a casa. E dopo tutto, egli seguitò in tono impaziente, tentando di vincere a un tempo gli scrupoli propri e quelli di lei, «io non spezzerei un legame assoluto. Se l'affetto di Lucy mi fosse stato ritolto ed offerto ad altri, io non mi sarei sentito di poter vantare dei diritti su di lei. Se voi non siete definitivamente fidanzata con Philip, allora non siamo legati, né voi né io. Questo voi non lo credete. Non è il vostro sincero sentimento», disse Maggie con serietà. «Voi pensate come me che il vero vincolo consiste nei sentimenti e nelle attese che abbiamo suscitati in altri, altrimenti tutti gli impegni potrebbero essere spezzati, quando non ci sia una sanzione esteriore. E non esisterebbe quella cosa che è la fedeltà». Steven taceva. Egli non poteva aderire a quell'opinione. Il convincimento opposto si era impadronito troppo violentemente di lui durante i precedenti tempi di lotta. Ma ecco che quell'idea si ripresentò subito sotto una nuova forma. «L'impegno non può essere mantenuto», egli disse con impetuosa insistenza. «È disumano. Noi non potremmo che fingere di darci ad altri. Che sarebbe anche questo un male? Potrebbe nascerne un'infelicità per loro quanto per noi. Maggie, voi dovete capirlo. Voi lo capite?» E guardava vivamente il viso di lei per cogliervi il più lieve segno di assenso. Le teneva la mano con una stretta virile, ferma e dolce. Ella rimase in silenzio per pochi minuti, china gli occhi al suolo, poi trasse un profondo sospiro e disse, alzando gli occhi a lui con solenne tristezza: «Oh, è difficile. La vita è tanto difficile. A volte mi par giusto di seguire i nostri sentimenti più forti, ma poi questi sentimenti contrastano di continuo coi legami che la vita in precedenza ci ha creati, i legami per cui altri fanno assegnamento su di noi. E ne sarebbero stroncati. Se davvero la vita fosse facile e semplice come deve essere stata in paradiso, e noi potessimo sempre scoprire alla prima quell'unico essere verso il quale, voglio dire, se la vita non ci creasse dei doveri avanti che l'amore giunga, allora l'amore sarebbe il segno che due persone debbono appartenersi. Ma capisco, Ma sento ora che non è così. Ci sono cose nella vita a cui si deve rinunziare. Alcuni di noi devono rinunziare all'amore. Molte cose per me sono difficili e oscure, ma ce n'è una che vedo chiara, che io non debbo, che io non posso inseguire la mia personale felicità attraverso l'altrui sacrificio. L'amore è cosa naturale, ma certo anche la pietà, la fedeltà e il ricordo sono cose naturali e sopravvivrebbero in me e mi punirebbero di non avervi obbedito. Mi perseguiterebbe la sofferenza che avrei cagionato. Il nostro amore sarebbe avvelenato, non insistete, aiutatemi, aiutatemi perché io vi amo. Maggie era divenuta via via più animata mentre parlava. Il volto le si era fatto acceso e gli occhi sempre più pieni di amore. Steven aveva in sé quel tasto di nobiltà che vibrava all'implorazione di lei, ma nel momento stesso, e come poteva essere altrimenti, quella supplice bellezza acquistò un nuovo potere su di lui. Cara, le disse, poco più che in un sussurro, mentre la cingeva col braccio, io farò, io sopporterò ciò che vorrete, ma un bacio, uno solo, l'ultimo prima di separarci. Un bacio e poi un lungo sguardo. Finché Maggie disse, tremando, lasciatemi andare, presto, torniamo. Affrettò il passo e più nessuna parola fu detta. Quando giunsero in vista di Willie e del cavallo, Steven si fermò e fece un cenno del capo, e Maggie varcò il cancello.